volta, prorogato fino al 30 settembre, 30 euro per 1000 ascoltatori per costruire una base minima di autogestione, oltre alle iniziative nei centri sociali che per forza di cose sono state assenti in questi ultimi mesi. Quindi, per chi fosse interessato, può andare sul sito, cliccare sul banner specifico e scegliere la modalità più congeniale. Salutiamo Maya dalla Sardegna, Gennaro D'Elena di Instant Lake da Caserta, il buon Daniele Santa Giuliana, Jean-Claude Bertot dalla Val d'Aosta, il medico della peste qui a Roma, Enrico Cerrato alias Petrolio dal Piemonte, Flavio Derbecante qui da Roma. Daniele della L Bones Records, sempre qui da Roma, di questa etichetta molto interessante. Allora, come in genere facciamo qui a Disorder, diciamo la prima parte del programma lo dedichiamo a proposte musicali che sono riconducibili al post-punk, alla dark wave, insomma a quel genere di musica, a quella concezione musicale che porta all'oscurità. E noi abbiamo un occhio di riguardo naturalmente anche verso le produzioni italiane. Ne abbiamo una che fa il suo esordio qui a Disorder e che viene dalla lontana Sicilia. Si chiamano Partinico Rosse. Partinico ovviamente è un posto proprio di laggiù, ed è un trio all'esordio con questo lavoro uscito sul finire del 2019, un album che si chiama Songs for Sad and Angry People. Le atmosfere ci ricondurranno direttamente all'universo post-Cure, quindi dark wave impostate in quel modo. Ed è quindi a questo punto ora di fare conoscenza diretta della musica dei Partinico Rosse. Ho scelto di mandare tre brani, esattamente Misantropi, che è il secondo, e poi la quarta e quinta traccia, Don't Leave Me Alone e The Story of Cancer. I lost my hair, I lost the beauty, I lost the genius.

everything is fine. Just with whispers and time, I'll go to the bar. Non posso non notare la freschezza, ma allo stesso tempo la potenza di questo nuovo progetto proveniente dalla Sicilia, che porta il nome di Partinico Rose. Sappiamo tutti che quando ci si riferisce a una precisa tradizione degli anni Ottanta, nello specifico la dark wave, il post-punk, ci può essere anche il rischio di una riproposizione piatta di vecchi modelli. In questo caso invece mi sento di dire che c'è una precisa via autonoma molto palpitante e radicale. E tutto ciò è Songs for a Sad and Angry People, dal quale abbiamo estratto Misanthropy, Don't Leave Me Alone e The Story of Cancer. Vincenzo Cannizzo, chitarra e questa ottima voce, il basso pulsante di Massimo Russo, la batteria di Carlo Schembari. Nel disco c'è anche la partecipazione al violoncello di Martina Monaca. Salutiamo Dario Righidi, Progetto No Name, Maya dalla Sardegna, Giovanni Lisidi, Con Distinti Serpente, Antonio Zoviet come omicidio. Un grande progetto industrial da Firenze, Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta. Graditissima Lupsi, Lucia Cagliazza, anche lei ascolteremo tra due giorni in prove tecniche di trasmissione. Laura Spirit Crusher da Frosinone, Arianna Degni Lombardo, DB Pit, artwork di DB Pit, musicista in quel progetto e in House Cluster. Nicola Locci in Sardegna, Stigmate. Quindi anche questa sera molta Italia, abbiamo cominciato dalla Sicilia dei Partinico Rose, andiamo leggermente più a nord, arriviamo a Caserta e lì ci aspettano gli Instant Lake con Disto Dream, secondo album per questo interessantissimo progetto, dove indubbiamente sono presenti influenze del gothic rock, ma arricchite e irrobustite con iniezioni di elettronica. L'ottima voce di Gennaro D'Alena, che risalutiamo, rende poi il tutto decisamente godibile. Questa sera ci andiamo ad ascoltare la terza e quarta traccia dal nome Death to Slavery e poi la successiva dal nome Trauma. Insomma, buone notizie dal sud Italia e ci fa molto piacere. Parte Nico Rose dalla Sicilia, queste Instant Lake da Caserta e la campagna in genere ha dato Natale a molti talenti, l'epopea Argene, Ashram, gli Apax, eccetera eccetera, adesso anche Instant Lake. Come ho già detto, robusto gothic rock, ma contaminato nel senso giusto con l'elettronica. Gennaro D'Elena, l'ottima voce di Gennaro D'Elena che salutiamo. E che scrive anche i testi. Pierluigi Grauso, chitarra e theremin, uno splendido strumento. Carlo Landolfi al basso. Dario Amoruso, sintetizzatore. La programmazione, presumo, la parte ritmica. Questo era Disto Dream, secondo lavoro, uscito il 2 maggio di quest'anno. Death to Slavery e Trauma, trauma che conteneva secondo me un retrogusto etnico. Insomma, una ventata di freschezza nel campo del gothic preso a più vasto raggio. Loro, Instant Lake, incidono per la Wave Records, un'etichetta brasiliana, e è bello sapere, e soprattutto sarebbe bello sapere come sono andati a finire in Brasile, come sono nati i contatti con questa etichetta che, ammetto, prima di conoscere loro non conoscevo, e poi invece ho saputo che è un progetto a me molto caro, che andremo ad ascoltarci ora, che si chiama Enib, di Filippo Biagioni. Anche lui incide per la Wave Record, quindi è un'etichetta da tenere assolutamente sotto controllo. Sono stati citati, direi a ragione, anche i Soft Moon come atmosfera in questo disco, ma secondo me lo è ancora di più in Cut di Enib, come ho detto, di Filippo Biagioni, cantante degli Echoes of Silence, e qui diciamo in libera uscita, in questo album dove fa tutto lui: canta, suona, compone, si ingegna. Da questo interessantissimo lavoro ci ascoltiamo Limbo, la title track Cut, e poi The Viewer. Hey girls, fireworks, precise.